l'ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Siete a bordo, dell'astronave Enterprise. Benvenuti. Questa è Star Trek, viaggio nella storia. Se ci siete tutti, direi di partire con Star Trek. Sono le 23 in punto, in diretta Andrea qua su Spreaker Radio, puntata questa sera un po' particolare. Torniamo in onda dopo un bel po' di mesi di astinenza, però è un ritorno, direi, almeno per quanto mi concerne, molto molto gradito. In 15 minuti si può fare ben poco, e anche parlare di Pierpaolo Pasolini in 15 minuti è cosa assurda, direi da fuori di testa, quindi non è che si possa dire tanto. Diremo qualcosina, faremo una piccola monografia in apertura della sua vita e poi magari citeremo qualche suo aforisma che è entrato veramente nella storia della lingua italiana. Se facciamo tempo, facciamo anche una veloce carrellata delle sue opere cinematografiche che il sottoscritto solitamente è solito visionare. Cioè, io visiono di tutto, da dei film, non so, di Alvaro Vitale, Lino Baffi, Renzo Montagnani, alle opere di Pasolini, di altri grandi registi che mi piacciono, diciamo così. Bene, in apertura facciamo proprio una piccola, come potremmo definirla, proprio velocissima carrellata sulla vita di Pierpaolo Pasolini, che nasce a Bologna il 5 marzo del 1922, poi è scomparso, come ben sapete, a Roma il 2 novembre del 1975. Wikipedia lo cita in questo modo: è stato un poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, drammaturgo e giornalista italiano, considerato tra i maggiori artisti e intellettuale del XX secolo. Culturalmente versatile, si divise in numerosi campi, lasciando contributi anche come pittore, questo non lo sapevo, romanziere, linguista, traduttore e saggista, non solo in lingua italiana ma anche in dialetto friulano. Attento osservatore dei cambiamenti della società italiana del secondo dopoguerra sino alla metà degli anni 70, suscitò spesso forti polemiche e accesi dibattiti per la sua radicalità dei suoi giudizi, assai critico nei riguardi delle abitudini borghesi e delle nascenti società dei costumi, come anche nei confronti del 68. Prese la parte dei poliziotti, benché di solito in quel periodo tutti erano schierati con gli studenti del 68. Lui prese le parti dei poliziotti in un articolo molto bello, che se riesco a trovare ve lo leggo grandi linee. Il suo rapporto con la propria omosessualità fu al centro del suo personaggio pubblico. E una cosa molto molto bella di Pasolini, che quando, diciamo così, è andato a vivere a Roma, si è stabilito a Roma, non aveva un becco d'un quattrino come i grandi artisti, come capita in quei casi, e lui si avvicinò molto alle borgate romane, dove ha conosciuto dei personaggi che poi hanno interpretato i suoi film, come Citti, Ninetto Davoli, eccetera eccetera. E visto che lui amava questo mondo un pochino sommerso delle borgate romane, noi apriamo questo speciale proprio con una musica, passatemi, tra virgolette, direi molto molto sommersa, molto underground, cioè sono quelle canzoni che difficilmente ascolterete sui network italiani. È un brano di una band che, diciamo così, da sempre propongono delle realtà indipendenti, una canzone che a me piace molto, il titolo è Vita Mia, a cantare i Fabbrica 2.0. bellissimo questo brano, The Fabrica 2.0. Vita mia, lo trovate in free download su internet, cercate Fuso Radio e scrivete The Fabrica 2.0, Vita mia. Insomma, abbiamo aperto questo bello speciale dedicato a Pierpaolo Pasolini in 15 minuti, proprio con un brano, direi, non di borgate, però molto molto underground, che viene dal basso, insomma, poco conosciuto per quanto concerne i panorami in VIP della musica italiana, che viene solitamente proposta dai network italiani. Però qua sul web si può fare, insomma, anche questo, si può ascoltare delle canzoni, delle piccole chicche che difficilmente da altre parti ascolterete. Ricordate The Fabrica 2.0, Vita mia. E questo è sempre Star Trek, Viaggio nella storia della musica con Andrea, in rigorosa diretta. Manca veramente poco, mancano 5 minuti al termine del programma, e vi volevo leggere una cosa di Pasolini e poi purtroppo ci tocca finire. Una sua poesia, Sesso, consolazione della miseria, a quest'ora poi, insomma, è molto molto indicata, perché in certe strade ci sono queste simpatiche signore che distribuiscono gioie a molti uomini. Sesso, consolazione della miseria. Ve la leggo subito perché è bellissima, molto bella. Togliamo la base perché mi piace leggerla così. La puttana è una regina, il suo trono è un rudere, la sua terra un pezzo di merdoso prato, il suo scettro una borsetta di vernice rossa. Abbaglia nella notte, sporca e feroce, come un'antica madre difende il suo possesso, la sua vita. Immagnaccia attorno a frotte, gonfi e sbattuti con i loro baffi brindisi o slavi, sono capi, reggenti, cambiano nel buio, i loro affari di 100 lire ammiccano in silenzio scambiandosi parole d'ordine. Il mondo escluso tace, intorno a loro, che se ne sono esclusi, silenziose carogne di rapaci. Ma nei rifiuti del mondo nasce un nuovo mondo, nascono leggi nuove dove non c'è più legge, nasce un nuovo onore dove onore è il disonore, nascono potenze e nobiltà, feroci nel mucchio di tuguri, nei luoghi sconfinati dove credi che la città finisca e dove invece ricomincia, nemica, ricomincia per migliaia di volte. Con ponti e labirinti, cantieri e sterri, dietro meraggiate di grattacieli che coprono interi orizzonti. Nella facilità dell'amore il miserabile si sente uomo, fonda la fiducia nella vita fino a disprezzare che ha altra vita. I figli si gettano all'avventura sicuri di essere in un mondo che di loro sesso, ha paura. La loro pietà è nell'essere spietati, scusate, la loro forza nella leggerezza, la loro speranza nel non avere speranza. Per Paolo Pasolini, La religione del mio tempo, bellissimo veramente, ho voluto leggervi questa. E così concludiamo con l'ultima canzone. Buonanotte a tutti da Andrea, alla prossima. È una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro. È una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. Storia diversa per gente normale, storia comune